Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Drago, ma dov'è finita la bambina ministra Gelmini? È già da un po' che non la nominiamo. Adesso poverina è investita di un nuovo problema, un problema scabroso. Ma no, anche lei, no, scabroso, ma non se ne può più. Adesso cosa hai capito? Dai. Secondo te l'han beccata a far cose scabrose? No, la bambina Maria Stella Gelmini è integerrima. Peccato. Senza occhiali, neppure tanto malvagia. Infatti. No, il problema scabroso riguarda l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole italiane. Cardinale l'ha criticata perché nelle scuole italiane si parla di sesso. Magari. Cioè, il cardinale c'entra sicuramente in qualche modo, ma il fatto è che in Italia si insegnano zero ore di educazione sessuale, alla settimana, all'anno, sempre, zero ore. E il problema scabroso è che qualcuno, finalmente aggiungerei io, ha chiesto al ministro di ovviare a questa mancanza. Effetti ai miei tempi non si parlava mai di sesso a scuola con gli insegnanti. Ah, invece tra alunni sì. Certo, si parlava solo di sesso. Negli Stati Uniti l'educazione sessuale nelle scuole è obbligatoria dal 1960. Quindi sì, sono ma bisogna vedere come la fanno, perché in certi stati educazione sessuale significa astinenza. Ah beh, cioè ti fanno una testa così perché si arrivi vergini al matrimonio. Virginity to the marriage and beyond. Infatti Bristol Palin, che è la figlia di Sarah Palin, ti ricordi che era rimasta incinta, era diventata ragazza madre proprio durante la campagna elettorale della madre. Andava in giro anche col fidanzato. Sì, era stato presentato, padre, che poi è già sparito e tutto quanto. Sì. Però adesso gira l'America in difesa dell'insegnamento cosiddetto abstinence only, cioè il tipo di insegnamento di educazione sessuale che è abstinence only, cioè solo astensione, astensionismo, non so. Il motto di Bristol è pause before you pay, cioè fermati prima di pagarla. E già dal nome è tutto un programma. Pause before you play. Vabbè, però visto come vanno le cose, credo che il rischio astensionismo o astensione non sia molto elevato tra i nostri giovani. Per le prossime elezioni, dici? Basta guardare su YouPorn. Infatti. E forse proprio perché non fanno educazione sessuale nelle scuole. Ma in che senso? Adesso cosa immagina, Drago, se si decidesse di cominciare con l'educazione sessuale nelle scuole italiane? Viva, no? Immagina che razza di casini scoppierebbero per decidere quale educazione sessuale dare ai bambini. Capito? Non voglio nemmeno pensarci. Pensa che dibattiti. Alla fine vincerebbero i bigotti, il modello sarebbe quello delle api, il polline, quelle cose che non si capisce niente. Quindi meglio così. Vabbè, però adesso imparano guardando YouPorn. Appunto, perché noi come abbiamo imparato, Drago? Ma non c'era YouPorn. C'era altra roba, c'era le ore. Appunto, ma per i bambini di oggi forse ci andrebbe qualcosa di meglio di le ore, no? Vabbè, ma YouPorn è molto meglio di le ore. Dai, scusa, le figure si muovono. E ora, bambini, ricreazione! Tito, dai, vieni qua, vieni ma Kappa, ma anche durante la ricreazione Tito deve stare in mezzo ai piedi. Ma dai, è già un tutor insopportabile. Ma scusa, prende l'aria anche lui. Vuoi stare al chiuso? Preferisci stare al chiuso? No, quell'aria viziata dell'asilo proprio è meglio evitare. È un po' freschino, ma insomma, dai. Un freddo cane, altro che. Freddo cane. Guarda il bambino Albertino come è vestito, sembra un palombaro. Vabbè, anche lui per il freddo, è sempre lì, da solo, in mezzo al cortile, rigido. Ciao bambino Alberto. Ciao. È un sorriso mai, Vabbè, non c'è motivo. Ma come? È venerdì, non sei contento? È venerdì, domani non si va a scuola. Contento, insomma. Sempre il solito entusiasmo, sempre la solita cosa. Oggi ti facciamo una bella intervista sull'educazione sessuale, dai. Sei contento? Dovrei essere contento. Scusa, è importante l'educazione sessuale, quando si è piccoli soprattutto, un dibattito aperto, Vabbè, se lo dite voi, ma io non so neanche cosa sia questa educazione sessuale. È l'educazione alla vita sessuale, che è una componente fondamentale della vita degli adulti. Vabbè, roba da adulti allora. Sì, in un certo modo sì. E io cosa c'entro allora? Vabbè. C'entri perché se impari qualcosa fin da adesso sarà più facile per te da adulto avere una vita sessuale soddisfacente. E priva di incidenti di percorso. Perché? Il drago è esperto. Cioè, questa vita sessuale è pericolosa? Cioè, si possono fare degli incidenti, roba del genere? Sì, incidenti, sì. Ma non è come quelli stradali, insomma, non sono quegli incidenti lì, sono incidenti spesso diplomatici, ragazzi, a volte anche un po' più terra-terra, solo che certe cose non le puoi capire. Vabbè, ma scusa, se non le posso capire, cosa continuate a dirmele? Ma no, ma è che K ha un po' impostato male il discorso. Sì, allora, forse. Sta a sentire me, ti ricordi la signorina, quella che ti piaceva? Quella con le poppone? No, come, drago, sì, che dai, fidati, cosa, K. Cosa, allora, fidati? Alberto, te la ricordi la poppona? Certo. Ecco. Quando dici che ti piace, che cosa intendi? Cioè, che me la farai volentieri. Ma dai. Ma allora sa già tutto, scusa, ma, K. Ma forse sì. Ma cioè, in che senso te la faresti? Cosa dici? Vabbè, in che senso? Cioè, in che senso? Cioè, devo andare nei dettagli? O basta qualche gesto esplicito? Ah, no, allora abbiamo capito. Allora no, hai capito. Allora, scusa, abbiamo capito che ha capito. Che lo facciamo qui? Ci mettiamo a spiegare anatomia, biologia, un bambino che sa già tutto. Dai, non rendiamoci ridicoli, smettiamo. Non so, io non mi fido, scusa. Bambino Alba Chiara, senti un po'. In questo caso. Dimmi cosa vuol dire che ti piace la signorina Poppona. Che mi piace un casino. Sì, ma perché? Cioè, cosa provi? Cosa provo? Non lo so. Bambino Alberto! Allora? Ma non lo so! Cioè, io ho sentito Gino il Bidello, no? Che diceva che quella lì, quella nuova maestrina, era una bella popona, E che lui se la sarebbe fatta, E poi faceva anche il gesto, no? Il gesto così. Così, con le mani. Ma io non so cosa voglia dire. Ma allora facevi solo finta. Cioè, per sentirti grande, per fare come i grandi, dicevi quella me la farei, poppona qui, poppona là. Mi vergogno un po', però sì. Vedi, allora, visto che non sai niente, bambino Albertuccia, ti spieghiamo tutto noi. Con i sistemi nuovi, quelli espliciti. Allora, devi sapere che le api... Come le api? Le api, bambino Albertino, le api. Quelle che pongono. Anche, ma insomma, quando le api volano di fiore in fiore... non è così che si spiega. Perché? Portano con sé il polline, Il polline. Eh? Cioè, poi dopo arriva la poppona, no? E ora, bambini, tutti a casa. Oh, finalmente è finita, tutti a casa. Aspetta, drago, aspetta, a casa sua, perché aspetta, di te non ne posso più. Aspetta, cosa c'è? C'è il predicozzo di Suor Dentona, detta Suor Dentona. No, basta, e dai. Rassegnati zitto, è qui che arriva. Gli spiriti genitili provano sempre una soddisfazione profonda nell'esercizio della pietà. Nei momenti poi di angoscia o d'accuramento, par che sia un conforto ineffabile nel lenire un dolore, nell'asciugare una lacrima ad un altro infelice, più infelice forse di voi. Drago, cosa ci facciamo qui? Questa dice sempre delle cose di 100 anni fa. Andiamocene via. Stai zitto. Il dolore e la sventura stringono vincoli misteriosi tra quelli che ne sono oppressi, onde una naturale e profonda simpatia se ne genera e manifesta tra loro. Aia, ma Suor Dentona, io stavo zitto. Il dolore? Aia, dolore. E sventura. No. Aia. Cari bambini, il predicozzo è finito. Andate in pace. Meno male, speriamo di non vederci mai più. Aia, ma basta. Vabbè, però se parli sempre. Torniamo lunedì, ma prima di andare salutiamo e ringraziamo Alberto Caserini e Lucia Gadolini. Sì, ma anche Margherita Aina e Fabio Cutti, i bambini. Sì, tutti i bambini di Radio Carmelo, 24. Ciao, grazie. Luca, Giorgio. Sì, chiedo ma ragazze asilo. Mai, non so. No, niente, chiedo asilo a Radio24.it.